Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Filiasi. Oggi a Destini incrociati iniziamo parlando di bontà. È una caratteristica dell'uomo? L'uomo nasce buono? Ogni cosa è buona mentre lascia le mani del creatore delle cose. Ogni cosa degenera nelle mani dell'uomo. Questa è la frase che apre il romanzo Émile di Jean-Jacques Rousseau, dove per la prima volta il concetto del buon selvaggio appare in tutta la sua forza. È la storia dell'educazione di un giovane gentiluomo che il suo precettore riporta in campagna, lontano dagli effetti nefasti della civiltà. L'idea è che solo riunendosi alla natura, l'uomo può essere libero di svilupparsi secondo la propria indole, i propri stimoli, la propria originale capacità di vedere le cose in modo non corrotto. Tutta la fine del XVIII secolo è attraversata da questa idea romantica che la cultura e la civiltà possono solo sporcare la naturale bontà dell'essere umano. Anche se in realtà, sin dai tempi del Robinson Crusoe di Dafoe ai viaggi di Gulliver di Swift, iniziano a venire proposti come eroi positivi quasi più i selvaggi, come il sensibile Venerdì, piuttosto che i bianchi colonizzatori, come il pratico e utilitaristico Robinson. Sono gli anni in cui Cook scopre le splendide isole dei mari del sud che sembrano l'Eden sulla Terra. E con esse scopre anche mondi dove la felicità è ancora nelle piccole cose, senza sovrastrutture, senza limitazioni alla libera espressione di se stessi. Dove il possesso è sconosciuto, la condivisione appare naturale, la gioia è ovunque. E quindi la civiltà va abbandonata per recuperare la propria interezza, la propria capacità empatica, il proprio io più puro e in armonia con la natura? Beh, è quello che deve aver pensato all'inizio degli anni 30 un giovane norvegese, studente di zoologia e antropologia, dal nome di un dio, Thor. Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl. Tornare alla natura? Dire addio alla civiltà? Un conto è sognarlo, un altro è farlo. Io ci ho provato. Ho provato a tornare alla natura. Ho fracassato l'orologio tra due pietre e mi sono lasciato crescere barba e capelli. Mi sono arrampicato sulle palme per nutrirmi. Ho infranto tutte le catene che mi univano al mondo moderno. Sono parole racchiuse nel libro che Thor Heyerdahl ha scritto sulla sua incredibile esperienza nei mari del sud. Un anno trascorso insieme alla giovane moglie Liz, senza nessuna comodità né contatto con la cultura occidentale, vivendo alla stregua di novelli Robinson Crusoe, con solo quello che la natura offre. Ma facciamo un passo indietro, e dal sole della Polinesia passiamo al gelo del circolo polare artico. Alla foce del fiordo di Oslo, in Norvegia, si distende un piccolo paesino di nome Larvik. Qui, in una casa di legno verniciata di bianco e ricoperta di edera, nasce nel 1914 Thor Heyerdahl. I primi suoni che il piccolo Thor ricorda sono quelli ovattati degli zoccoli dei cavalli che percorrono le strade innevate, o quello delle baleniere che rientrano in porto dopo la caccia agli immensi mammiferi nelle acque gelide dei mari del nord. È un'infanzia tranquilla, sana, ma la presenza di una natura pura e incontaminata non bastano a Thor, che crescendo sente confusamente che contro questo paesaggio idilliaco preme con forza il progresso. Del resto, è un'epoca in cui, finita da poco la Prima Guerra Mondiale, la fiducia nell'intelligenza dell'uomo e nelle sue capacità sembrano poter assicurare un nuovo e duraturo periodo di pace. Ma nel progresso Thor tende a vedere più gli inganni che i guadagni. Per lui il benessere economico è solo basato sullo sfruttamento del popolo, ridotto a lavorare nelle catene di montaggio. La maggiore mobilità, più che un vantaggio, sembra comportare uno sfruttamento del territorio che distrugge boschi, inquina fiumi e uccide animali. La crescita a dismisura delle città porta a una spersonalizzazione delle relazioni umane e all'isolamento dei più deboli. Eppure la mamma e il padre di Thor sono due studiosi, due intellettuali che guardano alle conquiste del mondo con entusiasmo. Ma il figlio non riesce a comprendere come essi possano amare una cosa che ai suoi occhi può solo allontanare l'uomo dalla natura. In quel periodo Thor è invece affascinato dalle avventure del suo compatriota, Roald Amundsen, l'esploratore artico che poco prima della sua nascita ha raggiunto il Polo Sud e compiuto la traversata del passaggio a nord-ovest. E sulla scia di queste imprese decide quello che vuole fare da grande. l'esploratore. Era questo che volevo diventare. Penetrare a piedi, a cavallo o sul dorso di un cammello nelle terre sconosciute del nostro vasto mondo. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside. So in a word, don't shed a tear. I'll be here when it all gets weird. If I ever leave this world alive. A 16 anni, Thor inizia a ragionare sulla bellezza suprema della Madre Terra e appena può fugge sulle montagne per lunghi periodi in una sorta di preparazione spirituale. Abbracciare la natura per sfuggire ai rischi di una generazione lanciata in una corsa forsennata verso lo sviluppo e nient'altro. Molto meglio mettersi a cercare un sentiero più sicuro. Cominciai a sentirmi come un prigioniero che si preparava con calma a buttarsi da un treno che stava correndo su un binario sbagliato. Inizia a farsi strada in lui un progetto semplice, ma al tempo stesso follemente drastico. Tornare alla natura trasferendosi in qualche lontanissima isola dei tropici, dove sia possibile cogliere il cibo dagli alberi, vivendo di quello che il territorio offre e nient'altro, in un ardito esperimento esistenziale. Thor non racconta a nessuno il suo progetto, ma inizia a impegnarsi per trasformarlo in realtà. Innanzitutto rinforzando il suo corpo. Corre nella foresta, campeggia in montagna dormendo in un caldo sacco a pelo di renna acquistato dai Lapponi. Impara a costruirsi un rifugio con i blocchi di ghiaccio come gli eschimesi. Sempre preciso, focalizzato, attaccato a un unico pensiero: tornare alla natura incontaminata. Il secondo obiettivo di Thor è di trovare una ragazza con cui condividere il suo progetto. Un'impresa ardua. Non è che a tutte le ragazze che incontra può chiedere se sono disposte a lasciare la civiltà per tornare a fare le selvagge nelle isole australi. Finché non incontra Liz. Le domandai all'improvviso: cosa ne pensi di un ritorno alla natura? Bisognerà farlo fino in fondo, replicò con voce ferma e senza esitazioni. Era la risposta che aspettavo. Aveva capito. Avrebbe partecipato al mio esperimento. L'idea di fare un balzo nel passato di un migliaio di anni sembra non spaventare Liz, una giovane studentessa di economia. Lei e Thor decidono di sposarsi quanto prima, ma quando il futuro suocero viene a conoscere le intenzioni di Thor, le reazioni non sono quelle sperate. L'uomo che ha spinto la figlia a frequentare un solido corso di economia non è il soggetto adatto a comprendere le ambizioni da Robinson Crusoe del giovane fidanzato della figlia, che considera un pericoloso visionario. Thor deve escogitare un piano. La sua idea è quella di accreditarsi presso la comunità scientifica per superare le perplessità del suocero. Un'idea ambiziosa e soprattutto che richiede un sacco di tempo. Ma per la società del tempo è l'unica strada percorribile, soprattutto se il giovane vuole persino farsi finanziare il viaggio. Thor prepara un progetto per studiare come alcuni animali siano arrivati in Polinesia, che notoriamente non aveva mai fatto parte di un continente, ma dove ogni isola era sorta dal nulla grazie a eruzioni vulcaniche. Il progetto piace ai professori, che lo approvano, permettendo a Thor di concretizzare il suo sogno. Quando finalmente i genitori, convinti dai professori, acconsentono a pagare ai due ragazzi il biglietto per il viaggio, c'è da decidere l'isola dove effettuare l'esperimento. E per trovarla c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per giorni, davanti agli occhi eccitati di Thor e Liz, si stendono enormi cartine geografiche. Veleggiando con la fantasia nel vasto oceano azzurro di carta, fra mille isole e atolli, i due ragazzi eliminano i luoghi troppo turistici, quelli troppo aridi, le isole prive di forme di sostentamento, quelle troppo popolate, per approdare infine alle isole Marchesi, nell'isola di Fatu Hiva, dove il famoso cantautore Jacques Brel si ritirò al culmine della fama per 4 lunghi anni. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Le isole Marchesi esprimono un fascino ancestrale, non solo per il musicista Brel, ma ancor prima anche per il famosissimo pittore Paul Gauguin, che qui ha voluto essere sepolto. Gauguin si trasferisce nelle Marchesi dopo un lungo peregrinare in Polinesia, fra Tahiti e Papete. Dai mari del sud, lontano dalla civiltà, Gauguin trae gioia, ispirazione, calma e crea capolavori come Donna col fiore e Il cavallo bianco. I ritratti sono intensi, volti senza tempo di donne senza passato. I paesaggi sono dipinti con colori e toni impensabili nella fredda Europa, sogni ad occhi aperti di paradisi, dove la natura è l'unica padrona. È esattamente il mondo di cui sono alla ricerca anche Thor e sua moglie. Quando partono, nel giorno di Natale del 1937, la Norvegia è fredda e piena di abeti decorati di luci. Le campane delle chiese battono a festa. Ma la festa più grande è quella che avviene nel cuore dei due ragazzi sul piroscafo, alla volta di un'avventura senza precedenti, un esperimento di cui ancora non conoscono la portata che avrà nella loro vita. I due ragazzi non sono ragazzi qualsiasi. A un'età nella quale la normalità vuole che un giovane pensi solo a divertirsi e a vivere immerso nel suo tempo, godendo appieno di tutto il meglio che la civiltà offre, una scelta così radicale di allontanamento e rifiuto della modernità è quantomeno bizzarra. Ma Thor Heyerdahl non è un ragazzo qualsiasi. O forse in qualche modo qualcosa dentro di lui gli fa sentire che il luogo dove sta andando è un vero e proprio appuntamento col destino e con l'uomo che cambierà radicalmente la sua esistenza. La prima tappa è a Tahiti, la perla della Polinesia francese, la splendida isola dove secoli addietro era approdato il vascello Bounty del famoso ammutinamento e dove anni dopo sarebbe stato girato il famoso film con Marlon Brando, che qui conobbe Tarita, la sua seconda moglie. Io partirò fra poche ore. Io aspetto Fletcher. Io guardo per te ogni giorno. Maimi, ti vorrei trovare il modo per farti capire che non tornerò più. E se mi aspetterai sarai soltanto infelice, e questo non lo voglio. Tu non torni più da me. Tu non torni più a Tahiti, una volta. No. Ma non dimenticherò. Vedi, sono stato felice qui, Maimiti. Mi ricorderò di te. A Tahiti, Thor e Liz conoscono il capo Terriero, che in breve diventa il loro grande amico. Chief Terriero. Il capo Terriero mi aveva adottato come 28° figlio, con il nome di Teriai Matiata, che vuol dire cielo azzurro. Blue sky. Il capo Terriero è affabile e ospitale, l'isola è bellissima. Eppure, quella Tahiti con cui vengono in contatto Thor e Liz convince i due ragazzi della bontà della scelta della loro destinazione finale. Tahiti è fin troppo popolata e civilizzata per accogliere il loro progetto. Ma è a Tahiti, grazie agli insegnamenti di Terriero e di sua moglie, che imparano tutti i trucchi che gli permetteranno di sopravvivere nella loro futura isola. Da come cacciare un maialino o arrampicarsi su una palma da cocco, a come cucinare il frutto del pane o il fei, le grandi banane rosse immangiabili se crude. Ed è a Tahiti che Thor impara per la prima volta a nuotare. Quando tutto è pronto, Thor e Liz si imbarcano di nuovo su un bastimento postale che li porta alla loro destinazione finale, sbarcandoli su una spiaggia deserta a Fatu Hiva. Quando prendemmo coscienza della realtà, quando anni di sogni si avverano nel giro di pochi secondi, ci trovammo soli su una sassosa spiaggia ignota, a vedere issare le vele del Tereroa, e subito dopo la goletta a due alberi che lentamente si allontanava. La seguimmo con lo sguardo, finché il bianco vascello, divenuto sempre più piccolo, non andò a confondersi con le altre migliaia di creste spumeggianti che riempivano l'oceano. I primi tempi di Thor e Liz sull'isola non sono facili. Non hanno cibo, non hanno attrezzi se non un coltello e un macete. Grazie all'aiuto del parroco protestante del luogo, un marchesano di nome Pacheche e del suo sagrestano Tioti, in breve riescono a costruirsi una capanna in una radura attraversata da un ruscello. Ma poi, sotto loro espresso desiderio, vengono lasciati soli, in mezzo alla giungla equatoriale, liberi di iniziare il loro esperimento. Ritornare alla natura, trasformarsi nel buon selvaggio, tanto vagheggiato sulle pagine di Rousseau. Le prime notti le trascorrono quasi interamente svegli ad ascoltare i rumori della giungla. Gli urli terribili di animali sconosciuti, qualcosa che gracchia, qualcosa che cigola, e poi quel tunf di cose che cadono, quegli schioppi improvvisi come da arma da fuoco. E poi qualcosa che sembra avvicinarsi furtivamente, qualcosa che rovista nel terreno e poi di nuovo versi, urla, latrati. Col cuore in tumulto, i due giovani immaginano di tutto. Crudeli indigeni in agguato fuori la capanna pronti a sgozzarli con i macete, bestie feroci, divinità in collera per la presenza di due europei che profanano i loro luoghi sacri. Il loro paradiso somiglia molto di più a un inferno dantesco. Ma a poco i due ragazzi imparano a convivere con l'isola e l'isola sembra accettarli e inglobarli. Mangiano frutta, pesce e piccoli gamberetti di fiume. Vanno in giro seminudi, si bagnano nel ruscello da cui prendono anche l'acqua per bere. Esplorano l'interno dell'isola. Sono giovani, poco più che ventenni, entusiasti, curiosi, aperti. La loro vita polinesiana sembra facile e l'esperimento sembra riuscire. Non sanno ancora che proprio in quell'isola li aspetta un incontro capace di dare un'ulteriore svolta alle loro vite. Fra poco, a Destini Incrociati. I used to smoke a twain, and I used to chop a pine. Every morning, pay the fine. Wake up red eye from the wine. Wake up red eye from the wine. And a bird taught me to sing, and I met the lowest king. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine degli anni 30. Un giovane zoologo e antropologo norvegese, Thor Heyerdahl, parte per le remote isole marchesi in Polinesia per tentare un esperimento inaudito. Tornare alla natura, provare a vivere come gli uomini primitivi, in un estremo tentativo di purificazione dalle contaminazioni della civiltà moderna, nel desiderio di ricostruire quel mito del buon selvaggio vagheggiato da Jean-Jacques Rousseau nel suo libro Emilio, nella seconda metà del Settecento. A Fatu Hiva, isola semideserta e selvaggia dell'arcipelago delle Marchesi, dopo quasi un anno, la vita di Thor e di sua moglie Liz prosegue fra mille difficoltà, soprattutto a causa delle malattie e per i rapporti con i nativi, sempre più ostili verso i due stranieri. Dopo l'ennesimo cambio di accampamento, Thor e Liz arrivano in una valle recondita al centro della quale trovano una piccola radura con palme da cocco circondate da una fitta boscaglia. Da una capanna costruita con bastoni, vedono sbucare un vecchio che con i suoi ricordi cambierà il destino di Heyerdahl. Nel suo libro Fatu Hiva, Thor descrive accuratamente l'uomo, il cui nome resterà per sempre nella sua memoria. Tei Tetua. Tei Tetua. Tei Tetua correva come una giovane capra di montagna. Era abbronzato e segnato dalle intemperie in tutto il corpo e indossava soltanto un sacchetto intorno all'inguine, legato a una cintura di corteccia. Era agile, muscoloso come uno che avesse la metà dei suoi anni. Sembrava ghignare con tutto il viso in una risata gaia ed eccitata che metteva nudo una dentatura perfetta, come quella degli antichi teschi che avevamo trovato sull'isola. Tei Tetua accoglie con generosità i nuovi arrivati, arrivando a costruire per loro una nuova capanna e offrendogli tutto ciò di cui dispone, anche se è pochissimo. Giusto qualche frutto e i maialini del suo piccolo allevamento. Un cibo molto diverso da quello che un tempo a volte l'uomo ospitava sulla sua tavola, perché Tei Tetua è l'ultimo superstite della tribù di cannibali dell'isola. Sono molte le ragioni per cui è esistito il cannibalismo nelle diverse società. Dalla semplice fame a un modo per onorare i propri defunti. Le ricerche suggeriscono che, anche per alcune tribù oceaniche, il cannibalismo è una forma di punizione tribale. L'autore del seguitissimo programma Tribe della BBC, Bruce Perry, per 4 anni in giro per il mondo a incontrare civiltà quasi scomparse, ha conosciuto le ultime tribù della Papuasia che ancora praticano il cannibalismo di tanto in tanto e prova a darcene una spiegazione. Ma per gli indigeni di Fatu Hiva, Tei Tetua è semplicemente l'ultimo uomo del passato, appartenente al mondo degli antenati, l'ultimo di coloro che avevano mangiato carne umana. Sapevamo che nelle isole marchesi si era praticato il cannibalismo fino ad almeno 50 anni prima. Un carpentiere svedese era stato mangiato sull'isola di Hivaoa nel 1879 e l'ultimo caso documentato di antropofagia su quell'isola risale a 10 anni dopo. Teitetua, allora, era già adulto e quest'isola e la sua valle erano assai più isolate di qualsiasi zona di Hivaoa. Ma anche un ex cannibale, quando rimane solo, ha bisogno di compagnia. Thor e Liv decidono di fermarsi nella radura di Teitetua e da allora inizia una pacifica convivenza con l'ex capo cannibale e la figlia, Momo. Teitetua ha avuto nel corso della sua lunga vita 12 mogli ed è sopravvissuto a tutte loro e ai loro figli. Rimasto solo per anni, dopo qualche tempo gli è stata affidata una bambina del villaggio che lo aiuta nei lavori di casa e a fare da mangiare. Momo sorride sempre e in breve tempo diventa amica di Liv, a cui regala collane di fiori e drappeggia i parei colorati. Intanto Thor segue il capo Teitetua in giro per l'isola, scoprendo che il vecchio è un vero e proprio specialista nella raccolta del cibo. In un'isola rigogliosa, in una situazione in cui la sopravvivenza è legata alla ricerca del cibo, la maggior parte di ogni giornata trascorre in giro per la giungla per questo scopo. Fra la boscaglia, con le alte palme che creano come dei grandi ombrelli che riparano dal sole, Thor e Teitetua trovano manghi, papaie, banane, guava, ananas. Nei torrenti raccolgono a piene mani i gamberetti di fiume per poi passare a cercare negli anfratti delle rocce le uova di uccelli marini. Il sogno di Thor e Liv sta raggiungendo la sua pienezza. Insieme a Teitetua e al suo mondo ancestrale, tagliati fuori da qualsiasi contatto con gli indigeni più civilizzati, i due ragazzi non sembrano neanche tornati all'epoca di Robinson, ma direttamente all'età della pietra. Anche Thor ormai sembra essersi trasformato. I capelli gli superano le spalle, la barba incolta. Il fisico, irrobustito dalle lunghe camminate, è perfetto grazie a una dieta fatta solo di frutta e di pesce. Ma in queste lunghe esplorazioni succede anche qualcos'altro. Nella fitta vegetazione, Thor trova delle statue antiche, delle sculture che raffigurano gli dèi. Tra i resti preistorici, continuavamo a incontrare statue di pietra che mi ricordavano statue molto simili delle antiche ed estinte civiltà del Sud America. Mi chiesi se ci potesse essere una connessione. Thor ogni tanto torna a riflettere sulle statue che ha visto, ma i pensieri non sono chiari. È difficile formulare ipotesi nuove quando si hanno certezze assimilate da anni. Fino ad allora, le teorie sulla diffusione umana nei vari continenti hanno sempre dato per scontato che le popolazioni della Polinesia siano giunte in queste isole vulcaniche, sorte dal nulla, direttamente dall'Asia. Ed è in una splendida notte di luna piena che la vita di Heyerdahl cambia, preparandosi a fare un grande balzo in avanti, davanti a un falò. Thor e Liv sono intorno al fuoco con Teitetua e Momo a parlare dopo la cena insieme. La notte sopra di loro è incredibile, uno spettacolo meraviglioso con la luna piena che illumina tutta la foresta. Da lontano giunge il rumore della risacca del mare e ogni tanto qualche verso di animale in lontananza. A un certo punto Teitetua inizia a intonare un antico, misterioso canto mentre oscilla dolcemente con il corpo avanti e indietro. Tei sta cantando la creazione del mondo. Tiki, il dio dell'uomo che vive nel cielo, fece la terra, poi fece le acque, poi fece i pesci, poi fece gli uccelli, poi fece i frutti, poi fece il maiale, poi fece la gente, un uomo che si chiamava Atea e una donna che si chiamava Atanoa. Secondo Teitetua, era stato Tiki in carne ed ossa a condurre gli antenati in queste isole attraverso l'oceano. Thor, curioso, domanda al capo cannibale da dove venisse Tiki e la risposta di Teitetua sconcerta il giovane norvegese. Da Tefiti, dall'Oriente. Teitetua, parlando, indica con un gesto il punto dell'orizzonte dove sorge il sole, una direzione cioè dove non c'è altra terra se non il Sud America. Thor non sa come reagire a questa notizia che va contro ogni tipo di sapere accademico formulato fino ad allora. Eppure, guardando il mare illuminato dalla luna, qualcosa dentro di lui gli fa credere che quello che dice il vecchio capo abbia un suo senso. The point is that Polynesia is situated at the heart of the trade wind system. Il punto è che la Polinesia è situata nel cuore del sistema degli Alisei. E al pari dei venti che spirano verso est, una potente corrente oceanica raggiunge queste isole dalle coste del Sud America. Gradualmente si fece strada in me l'idea che antiche civiltà fossero giunte sin qui dalle coste del Sud America molto prima di Colombo. L'America è veramente lontana, ma l'Asia lo è due volte di più. E il sistema ritmico e perpetuo degli Alisei e delle correnti marine si muove esclusivamente con un moto che va da est verso ovest e che non aiuta la navigazione al contrario. Per questo, teoricamente, sarebbe possibile che delle imbarcazioni abbiano attraversato l'oceano per arrivare fin qui dal Sud America. E questo spiegherebbe anche l'arrivo di animali come il gatto o il maialino, che altrimenti non avrebbero potuto giungere fino a queste isole. Gli Incas peruviani avevano parlato dell'esistenza di queste isole agli spagnoli, visto che gli europei, nonostante conoscessero da secoli le coste dell'Asia, non avevano mai sentito parlare di luoghi abitati nel bel mezzo del Pacifico. Le conversazioni intorno al fuoco con Tei Tetua continuano e con ognuna di esse sembra che si aggiunga un piccolo pezzetto del puzzle che si sta componendo nella mente di Thor. Quelle su Tiki non sono le uniche conversazioni con il vecchio capo cannibale, che a volte ricorda anche le vecchie abitudini. E quando racconta delle guerre fra tribù, lo fa pensando con piacere a quando i nemici uccisi venivano poi mangiati. Tei cominciò a parlarci di suo padre Uta, che era il più grande e feroce guerriero della valle. Ed era raro che mangiasse carne non umana. Ma non la voleva fresca, come la maggior parte dei suoi amici, no. Aspettava che stagionasse e diventasse tenera, prima di salire sulla piattaforma funeraria per riempire la sua tazza di zucca. Soltanto allora si godeva il suo pasto. La povera Liv è disgustata da questi racconti e si mette subito a dieta, non volendo ingrassare troppo e invogliare così il capo a tornare alle sue antiche abitudini. Ma anche le usanze guerresche raccontate da Tei Tetua contribuiscono ad avvalorare le teorie di Thor. I marchesani usano abitualmente solo la mazza e la fionda, le stesse armi diffuse nell'antico Perù, a differenza dei popoli asiatici che preferivano le armi da taglio e ignoravano le fionde. Gli stessi frutti che mangiano tutti i giorni iniziano a essere visti da Thor come una nuova prova. Quando chiede a Tei Tetua se i frutti sono stati piantati dai primi europei giunti nelle isole, la risposta del capo è chiara. No, non si sono mai arrampicati fin qui per piantare qualcosa. Questo ananas è Fa'oka, un antichissimo frutto piantato dai remoti antenati di Tei, ed è arrivato con Tiki. Thor ormai è ossessionato e trascorre i giorni guardandosi intorno in cerca di nuovi indizi che corroborino la sua idea. Dalla noce di cocco che non può essere stata semplicemente trasportata dai flutti perché ha bisogno di luoghi asciutti per germogliare e quindi presuppone il passaggio di un'imbarcazione, alle zucche presenti in ogni capanna polinesiana, ma anche nelle civiltà pre-incaiche, tanto da essere poste nelle tombe come offerta votiva. Rimane un ultimo scoglio. Come è stato possibile per i peruviani che possedevano solo agili imbarcazioni in balsa attraversare un oceano tanto vasto senza affondare prima? L'unico modo di testare la mia teoria era di costruire una di queste zattere sulla base delle descrizioni riportate dagli spagnoli, lanciarla dalle coste del Perù e vedere se gli Alisei e le correnti l'avrebbero trasportata fino alle spiagge di qualche isola del Pacifico. Formulando questa idea, Thor non sa ancora che grazie alle informazioni fornite dal capo Tei Tetua sta per lanciarsi in una delle più grandi avventure possibili per uno scienziato: scoprire una nuova rotta e la nascita di una civiltà. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo alla fine degli anni 30, davanti a un falò in una remota isola delle Marchesi, in compagnia di un giovane zoologo e antropologo norvegese, Thor Heyerdahl, e di un capo di una tribù cannibale dell'isola, Tei Tetua. Sopra di loro, la luna illumina la nascita di una nuova teoria sulla migrazione dei popoli nei diversi continenti, che si sviluppa grazie alle informazioni di Tei Tetua e alla capacità di Thor di connetterle insieme in una formula originale e senza preconcetti. Questa nuova teoria darà vita a una delle più interessanti imprese dell'epoca, a metà fra un esperimento scientifico e un viaggio di esplorazione. Gli ultimi mesi di permanenza di Thor Heyerdahl e di sua moglie Liv nell'isola di Fatu Hiva trascorrono in compagnia dei suoi ospiti Teite Tua e della figlia Momo. I rapporti fra i quattro continuano in grande armonia fino al giorno in cui si presentano altri indigeni ricacciati all'interno dell'isola a causa delle malattie che imperversano nei villaggi sulla costa. La presenza dei nuovi venuti altera improvvisamente i perfetti equilibri raggiunti dai quattro abitanti della valle e soprattutto portano con sé alcol e liquori. Col passare dei giorni e soprattutto delle notti, il gruppo di marchesani si riduce sempre peggio a causa del bere e persino Teite Tua, che fino ad allora aveva condotto una vita sana, si abbandona sempre più agli eccessi, iniziando anche a considerare i due stranieri come dei nemici. In breve tempo Thor e Liv decidono di abbandonare la valle che li ha resi felici per tutto quel tempo. È come se qualcosa si spezzasse nei cuori dei due ragazzi norvegesi che improvvisamente, dopo un anno trascorso a Fatu Hiva, sentono nostalgia di casa e soprattutto sentono una sorta di disillusione sulle capacità dell'uomo moderno di potersi riavvicinare alla semplicità di una vita come quella che hanno vissuto loro. Non c'è nulla a cui l'uomo moderno possa ritornare. Nonostante i giorni meravigliosi trascorsi nella foresta diano a Thor la piena consapevolezza di tutto quello che l'uomo ha abbandonato e da cui cerca di staccarsi ancora di più, si rende anche conto che senza alcune scoperte del mondo moderno, essi non potrebbero sopravvivere molto. Dalle cose più banali, come la zanzariera per difendersi dalle zanzare che portano malaria e la filaria dell'elefantiasi, alle cure mediche specifiche. Un pensiero che gli fa riconsiderare le sue idee sul progresso. Al nuovo passaggio di un bastimento postale, Thor e Liv decidono di salire per far ritorno alla civiltà dopo un anno trascorso a Fatu Hiva. Ma non è un ritorno triste, perché Heyerdahl è animato da una nuova forza, un nuovo progetto. Provare la sua teoria della colonizzazione di civiltà precolombiane in Polinesia. Tornato in Norvegia, trascorre gli anni a venire alla preparazione del progetto e alla ricerca di donazioni economiche per dar vita all'impresa. Interrotto dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il progetto riesce a vedere la luce nel 1947, esattamente 10 anni dopo la partenza di Thor e Liv per Fatu Hiva. Insieme a 5 compagni, un capace navigatore, un esperto in migrazioni umane, 2 esperti radio e un ingegnere esperto in misurazioni, Thor giunge in Perù, dove costruisce una zattera con grandi tronchi di legno di balsa. Finalmente la nostra zattera venne varata. Un vascello senza un solo singolo chiodo o vite, dove tutto era tenuto insieme secondo l'uso indigeno, solo con corde. La zattera viene battezzata Contiki, che vuol dire Dio del Sole, nelle antiche leggende inca. Ma al posto della tradizionale bottiglia di champagne, viene spaccata una noce di cocco, come richiede l'antica tradizione. Prima che l'imbarcazione prenda il largo, le autorità portuali pretendono un'assicurazione scritta che li sollevasse da qualsiasi responsabilità nel caso la zattera affondasse. Sono in molti a credere che l'impresa sia una follia. Il 28 aprile 1947 i pellicani furono sorpresi a vedere dopo tanti secoli una zattera di legno di balsa solcare un'altra volta le acque dell'oceano. La zattera dovrà compiere un percorso di quasi 4.000 miglia nautiche, una distanza come da Oslo a Miami in mare aperto, trasportata solo dalla corrente di Humboldt, una corrente che circola nell'Oceano Pacifico e che dal sud, dalle terre antartiche del Cile, risale verso il nord e le coste fino al Perù, per poi continuare in mare aperto verso est. Gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. Dopo qualche giorno di navigazione, il gruppo impara a guidare bene la zattera, che prosegue indisturbata la sua corsa, spinta dalla corrente e dagli alisei. Alla fine il Contiki si sottomette con grazia e continua a navigare con il vento che lo sospinge nella sua direzione, senza che noi possiamo fare nulla per cambiarla. Il viaggio del Contiki dura 101 giorni, fin quando la zattera non viene sbattuta il 30 luglio contro la barriera corallina dell'atollo disabitato di Raroia, nell'arcipelago delle isole Tuamotu. Credo che nessuno di noi dimenticherà mai la meravigliosa sensazione di arrivare sulla sabbia calda e di camminare su della terra solida dopo 101 giorni passati su una zattera che rolla. Eravamo giunti su un'isola deliziosa, piena di palme di cocco. Dopo 6 giorni di solitudine sull'atollo, i 6 esploratori vengono raggiunti e portati a Tahiti insieme ai resti del Contiki e di tutto quello che si riesce a trasportare. Da Tahiti l'equipaggio fa ritorno in Norvegia, dove viene accolto con entusiasmo. Da quest'impresa, Thor Heyerdahl realizza un documentario che viene presentato nel 52 a Hollywood, nella serata degli Oscar, vincendone uno per il miglior documentario. I resti della zattera Contiki vengono restaurati e attualmente si trovano nel museo Contiki a Oslo, presieduto dal figlio di Thor e Liv. Nello stesso museo si trovano anche tutte le imbarcazioni sulle quali negli anni a venire Thor Heyerdahl compie altre incredibili imprese. Mio padre ha sempre navigato su imbarcazioni primitive attraverso l'oceano per provare che anche nell'antichità era possibile diffondere la civiltà da un continente ad un altro. Dall'impresa con il Contiki, Thor non si ferma più. Va nelle Galapagos, individuando le isole come un possibile punto di approdo a metà del viaggio verso la Polinesia, ritrovando delle abitazioni precolombiane. Conduce degli scavi sull'isola di Pasqua, analizzando le possibili tecniche di costruzione dei Moai, le grandi statue monolitiche dell'isola, ma soprattutto solca di nuovo i grandi oceani con imbarcazioni indigene. Nel 1969 è la volta di Ra, una barca costruita in papiro seguendo le indicazioni degli antichi egizi per navigare lungo il Nilo. La spedizione, partendo dal Marocco, vuole dimostrare la fattibilità tecnica già nell'antichità di poter attraversare l'Oceano Atlantico e arrivare nel nuovo continente. La prima spedizione non raggiunge lo scopo. Il Ra naufraga dopo 56 giorni di navigazione. Ma il Ra secondo raggiunge un anno dopo le isole Barbados, partendo sempre dal Nord Africa. Viene poi la volta della barca fatta di papiro Tigri, che partendo dall'Iraq arriva fino a Gibuti nel Mar Rosso, discendendo prima il fiume Tigri, poi arrivando dal Golfo Persico fino all'Oceano Indiano, risalendolo fino al Mar Rosso. Un viaggio della durata di 6.800 km per dimostrare le possibilità di navigazione degli antichi Sumeri. Ma ognuno di questi viaggi trae la propria origine sempre da quelle notti stellate trascorse intorno al falò acceso del capo Teitetua, che per primo innesca in Thor Heyerdahl l'idea che non solo i bianchi civilizzati hanno potuto colonizzare altri paesi. Al contrario, secoli e secoli prima della scoperta dell'America, le civiltà si sono potute mischiare, incontrare, diffondere grazie a imbarcazioni come il Contiki o il Ra II. E soprattutto, grazie al coraggio di uomini che con il desiderio di esplorare il mondo, le terre lontane, hanno in questo modo contribuito a spostare l'orizzonte un po' più in là. Il capo Teitetua, anche senza aver mai lasciato la sua isola e la sua valle, in qualche modo fa parte di questo genere di uomini. Accogliendo Thor e sua moglie, questi due alti e biondi stranieri così diversi da sé, Teitetua si è prestato a questo grande disegno che è la commistione dei popoli e delle culture, l'accettazione dell'altro. Dimostrandosi così, nonostante le sue abitudini alimentari, un vero buon selvaggio, naturalmente ben educato, come sarebbe piaciuto a Jean-Jacques Rousseau. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.